volte in cantina e perfino in cucina della rock and roll star. Ho comprato i suoi dischi ed affronto anche i rischi di parlarne giù al bar. E mi pettino e vesto come il suo manifesto e mi sento più lui. E mi sento felice ascoltando la voce nei momenti più bui. Però in cantina io penso alla piscina della rock and roll star. E infilo via, vorrei fosse mia la Rolls Royce con il bar. E forse l'odio, e forse lo invidio con la sua casa al mare. Perché sono io, col denaro mio, che gliela devo pagare. Ora sono l'autista della rock and roll star. Non c'è più filosofia, me la sento un po' mia, la Rolls Royce con il bar. Ora ho preso coscienza della grande potenza di chi vuole qualcosa. Certamente son pazzo, ma ho deciso, lo ammazzo proprio mentre riposa. Rimetto a posto il corpo decomposto dalla rock and roll star. Ha preso il volo e guiderà da solo la Rolls Royce con il bar. Mi sento stanco ma resto al suo fianco, mi sento più lui. È tutto mio, da soli lui, io nei momenti più bui.